ad alta voce. Ilya Shilton legge La morte di Ivan Ilyich di Lev Nikolaevich Tolstoi. Traduzione di Chiara Natalucci. Tutti godevano di buona salute. Non si poteva definire malattia quello che Ivan Ilyich diceva di sentire a volte, uno strano sapore in bocca e un fastidio alla pancia a sinistra. Quel fastidio però iniziò ad aumentare e a trasformarsi, se non proprio in dolore, perlomeno in una sensazione costante di pesantezza al fianco e in cattivo umore. Quello stato d'animo si inasprì e si intensificò tanto da iniziare a rovinare la piacevolezza di quella vita leggera e decorosa che i Galavin si erano costruiti. Marito e moglie ripresero a litigare sempre più spesso e presto la leggerezza e la piacevolezza sparirono e a malapena si cercava di mantenere il decoro. Le scenate si fecero di nuovo più frequenti. Rimanevano soltanto quelle isolette, poche ormai, dove marito e moglie potevano incontrarsi senza esplosioni di rabbia. E adesso Praskovia Fyodorovna aveva iniziato a dire, non senza motivo, che il marito aveva un carattere difficile. Con la sua solita tendenza a esagerare, diceva che lui aveva sempre avuto un carattere terribile e che c'era voluta tutta la sua pazienza per sopportarlo 20 anni. Di fatto, ora i litigi partivano sempre da lui. Le polemiche avevano inizio sempre prima di pranzo e spesso proprio nel momento in cui Ivan Ilyich iniziava a mangiare la zuppa. Si accorgeva che le stoviglie erano rovinate, che qualcosa nel cibo non andava bene, che il figlio appoggiava il gomito sul tavolo, che la pettinatura della figlia non era a modo. E di tutto dava la colpa a Praskovia Fyodorovna. Praskovia Fyodorovna all'inizio ribatteva e gli diceva delle cattiverie, ma in un paio di occasioni, all'inizio del pranzo, Ivan Ilyich si infuriò così tanto che la moglie capì che il malessere gli si presentava tutte le volte che ingeriva del cibo. Quindi si calmò, non ribatteva più, si sbrigava solamente a mangiare. Praskovia Fyodorovna elevò a suo grande merito questa rassegnazione. Dopo aver stabilito che suo marito aveva un carattere terribile e che rendeva la sua vita un inferno, iniziò a compatirsi. E tanto più si compativa, tanto più odiava il marito. Iniziò a sperare che morisse, ma non poteva desiderarlo davvero, perché senza di lui non avrebbe avuto di che vivere. E questo pensiero accresceva la sua insofferenza nei confronti del marito. Praskovia Fyodorovna si riteneva estremamente infelice perché nemmeno la morte del marito sarebbe bastata a salvarla e si irritava e cercava di non darlo a vedere e la sua malcelata irritazione accresceva l'irritazione del marito. Una volta, dopo una scenata in cui Ivan Ilyich era stato particolarmente ingiusto, dicendo poi per giustificarsi di aver esagerato a causa del suo malessere, Praskovia Fyodorovna gli fece notare che se era malato doveva farsi curare e pretese che andasse a farsi vedere da un medico rinomato. Ivan Ilyich ci andò. Era tutto come si aspettava. Tutto andò come previsto. L'attesa, l'aria di affettata importanza che si dava il dottore, a lui ben nota perché faceva la stessa cosa in tribunale, e il picchiettio, l'auscultazione e le domande che richiedevano in anticipo risposte tanto precise quanto inutili, e quella preoccupante serietà che lasciava intendere: voi affidatevi a noi e noi sistemeremo tutto. Certamente sappiamo come sistemare le cose. Procediamo alla stessa maniera per ogni persona, chiunque essa sia. Succedeva esattamente come in tribunale. Così come Ivan Ilyich fingeva in tribunale davanti agli imputati, ora il medico rinomato fingeva davanti a lui. Il medico diceva: Questo e questo indicano che avete questo e quello. Ma se gli esami non confermano questo e quello, allora dovremmo ipotizzare questo e quest'altro. Se ipotizziamo questo, allora e così via. A Ivan Ilyich stava a cuore solo una domanda. La sua condizione era grave oppure no? Ma il medico ignorò questa domanda ritenendola inopportuna. Dal punto di vista del medico, quella era una domanda inutile e fuori discussione. Bisognava solo vagliare le diverse ipotesi: il rene mobile, il catarro cronico e una disfunzione dell'intestino cieco. La questione non riguardava la vita di Ivan Ilyich, riguardava la controversia sul rene mobile e l'intestino cieco. Agli occhi di Ivan Ilyich, il medico risolse la controversia in maniera brillante, optando per l'intestino cieco, con la riserva che l'esame delle urine avrebbe potuto portare nuovi indizi, nel qual caso la questione sarebbe stata riesaminata. Proprio come Ivan Ilyich aveva fatto migliaia di volte davanti agli imputati, comportandosi in maniera altrettanto brillante. Il medico fu irreprensibile nell'esporre la sua diagnosi e guardò l'imputato da sopra gli occhiali con aria trionfante, quasi allegra. Dal resoconto del medico, Ivan Ilyich capì di stare male, questo non faceva alcuna differenza né per lui né per il medico né per nessun altro, ma lui stava male. E questa conclusione colpì dolorosamente Ivan Ilyich, suscitandogli un sentimento di grande pietà per se stesso e di grande rancore per l'indifferenza del medico nei confronti di quella domanda così importante. Ivan Ilyich non disse niente, si alzò, mise i soldi sul tavolo e, dopo aver fatto un respiro profondo, chiese: «Magari è vero che a volte noi malati facciamo delle domande sciocche», disse, «ma ditemi, è una malattia grave?» Il medico lo guardò con sguardo severo attraverso gli occhiali, come a dire: «Imputato, se non riuscite ad attenervi ai limiti delle domande a voi posti, sarò costretto a farvi uscire dall'aula. Vi ho già detto quello che ritenevo necessario e opportuno», disse il dottore. «I prossimi esami diranno il resto», e il medico lo salutò con un leggero inchino. Ivan Ilyich uscì lentamente, malinconicamente salì sulla slitta e tornò a casa. Per tutto il tragitto non smise di ripensare a quello che gli aveva detto il medico, cercando di tradurre in parole semplici tutti quei termini scientifici confusi e incomprensibili e leggervi la risposta alla domanda: «Sto molto male oppure per ora non è niente?» E gli sembrava che il senso di quello che il dottore aveva detto fosse che stava molto male. Nelle strade tutto gli sembrava triste, i cocchieri erano tristi, le case tristi, i passanti, le botteghe erano tristi. Quel dolore, invece, un dolore intenso, sordo, che non si fermava un attimo, adesso, in riferimento ai discorsi poco chiari del dottore, assumeva un significato nuovo, più grave. Ivan Ilyich, con una nuova e opprimente sensazione, si metteva ora in ascolto di quel dolore. arrivò a casa e iniziò a raccontare tutto alla moglie. La moglie ascoltava, ma a metà del racconto entrò la figlia col cappellino. Si preparava a uscire con la madre. Si sedette controvoglia e si mise ad ascoltare quella seccatura. Ma non resistette a lungo e nemmeno la madre finì di ascoltare. «Bene, sono molto contenta», disse la moglie. «Vedi di prendere regolarmente le medicine. Dammi la ricetta, mando Gerasim in farmacia». E andò a vestirsi. Mentre la donna era nella stanza, Ivan Ilyich non aveva mai preso fiato e quando lei uscì fece un respiro profondo. «Su via», si disse, «magari non è niente». Si attenne alla prescrizione del medico e iniziò a prendere le medicine, che però cambiarono dopo i risultati dell'esame delle urine. Infatti accadde che da quell'esame e da ciò che ne doveva conseguire ne venne fuori una bella confusione. Non riusciva a farsi ricevere dal medico e risultò che le previsioni del medico non si erano avverate. O il medico se n'era dimenticato, o aveva mentito, o gli stava nascondendo qualcosa. Ma Ivan Ilyich, nonostante tutto, continuava a seguire meticolosamente la cura e nel primo periodo trovò consolazione nel seguirla. La principale occupazione di Ivan Ilyich dopo la visita diventò la scrupolosa osservanza delle raccomandazioni del dottore riguardo all'igiene, all'assunzione dei farmaci e all'ascolto del proprio dolore e di tutte le funzioni dell'organismo. Di grande interesse divennero per Ivan Ilyich le persone malate e le persone sane. Quando davanti a lui si parlava di malati, di moribondi, di gente guarita, soprattutto da una malattia simile alla sua, egli, cercando di nascondere la propria agitazione, ascoltava, faceva delle domande e faceva il confronto con il suo caso. Il dolore non diminuiva, ma Ivan Ilyich si sforzava di credere di stare meglio e riusciva a ingannare se stesso finché qualcosa non lo turbava. Ma al primo screzio con la moglie, alla prima seccatura al lavoro o quando gli capitavano brutte carte al gioco, sentiva tutta la forza della sua malattia. Gli succedeva di sopportare questa sfortuna sperando di porre rimedio al peggio, di vincere, di raggiungere il successo, il grande slam. Ora ogni insuccesso lo abbatteva e lo gettava nella disperazione. Diceva tra sé: «Ecco, avevo appena iniziato a stare meglio e la medicina aveva iniziato a fare effetto che questa maledetta sfortuna, questa seccatura, se la prendeva con la sfortuna e con quelli che lo avevano infastidito o che gli avevano arrecato un danno, e provava un rancore che lo uccideva, ma non riusciva proprio a trattenersi. Avrebbe dovuto capire che questa esasperazione nei confronti delle circostanze e delle persone aggravava il suo stato e che perciò non doveva prestare attenzione alle spiacevoli casualità. Invece lui faceva esattamente il ragionamento opposto. Diceva sì che gli serviva la tranquillità, ma si ritrovava sempre in situazioni che questa tranquillità gliela rovinavano e a ogni minima seccatura si irritava. Leggere libri di medicina e chiedere consiglio ai medici non faceva che peggiorare la sua situazione. Peggiorava in maniera lenta e costante, così che se confrontava un giorno con l'altro, le differenze erano talmente poche da potersi illudere che non stava peggiorando, ma ogni volta che parlava col medico gli sembrava di peggiorare sempre di più e velocemente. Ciò nonostante, continuava a chiedere il parere dei medici. Quel mese si fece visitare anche da un altro medico illustre. Quest'altro medico disse più o meno quello che aveva detto il primo, ma pose la questione in un altro modo. Consultarlo non fece che aggravare il dubbio e la paura di Ivan Ilyich. Un amico di un suo amico, un medico molto bravo, definì la malattia in modo del tutto diverso e, nonostante la promessa di guarirlo, con le sue domande e supposizioni confuse ancora di più Ivan Ilyich e ingigantì il suo dubbio. Un omeopata definì la malattia in modo diverso ancora e gli diede delle medicine e Ivan Ilyich, di nascosto da tutti, le prendeva ormai da una settimana. Ma dopo una settimana, non sentendo miglioramenti e avendo perso la fiducia sia nelle medicine precedenti che in queste, cadde in uno sconforto ancora più grande. Una volta una signora che conosceva gli aveva parlato di una guarigione avvenuta attraverso le icone. Ivan Ilyich si sorprese ad ascoltare con tanta attenzione e a credere alla realtà del fatto. Quell'evento lo spaventò. Davvero sono così intellettualmente debole, si disse. Sciocchezze, sono tutte scemenze. Non bisogna lasciarsi prendere dall'ipocondria, ma una volta scelto un medico bisogna attenersi severamente alla sua terapia. Farò così, ora basta. Non ci penserò più e fino alla prossima estate seguirò la terapia. Poi si vedrà. Ora basta con queste esitazioni. Era facile a dirsi, è impossibile a farsi. Il dolore al fianco lo tormentava, in qualche modo peggiorava, era diventato costante. Il gusto in bocca diventava sempre più strano. Gli sembrava che la sua bocca emanasse un odore nauseabondo e l'appetito e le forze diminuivano. Non ci si poteva più ingannare. Gli stava capitando qualcosa di spaventoso, di nuovo e di così significativo come mai era accaduto nella sua vita. E solo lui lo sapeva. Tutti quelli che gli stavano intorno non capivano o non volevano capire e pensavano che al mondo tutto fosse tale quale a prima. Ed era questo quello che più straziava Ivan Ilyich. Vedeva che i suoi familiari, soprattutto la moglie e la figlia, nel pieno della loro vita mondana, non stavano capendo niente e gli recriminavano di essere sempre scontroso ed esigente, come se la colpa fosse sua. Nonostante cercassero di nasconderlo, lui vedeva che per loro era diventato un peso e che la moglie aveva sviluppato un certo atteggiamento verso la sua malattia e si comportava indipendentemente da quello che lui diceva o faceva. L'atteggiamento era questo. «Sapete», diceva agli amici, «Ivan Ilyich non può, come tutte le brave persone, seguire scrupolosamente la terapia. Oggi prende le gocce, mangia quello che gli è stato prescritto e va a dormire all'ora giusta. Domani, di colpo, se non lo controllo, si dimentica di prendere le medicine, mangia lo storione, che non gli è stato assolutamente prescritto, e gioca a carte fino all'una di notte. Ma quando mai?» diceva Ivan Ilyich con stizza. «È successo solo una volta da Piotr Ivanovich e ieri con Shebek. Poco male, tanto non riuscivo a dormire dal dolore. Così facendo non guarirai mai e continuerai a tormentarci». L'atteggiamento che Praskovia Fyodorovna assumeva con lui e con gli altri nei riguardi della malattia del marito era quella di incolpare Ivan Ilyich per la malattia stessa e per il fatto che questa non era altro che l'ennesimo modo di procurarle una seccatura. Ivan Ilyich sentiva che lei lo faceva involontariamente, ma questo non lo faceva stare meglio. In tribunale gli pareva di notare qualcosa di strano nei suoi confronti. Gli sembrava che lo fissassero come si fissa un uomo che sta per lasciare il proprio posto di lavoro. Gli sembrava che di colpo i suoi amici avessero iniziato a prenderlo in giro amichevolmente per la sua ipocondria, come se quella cosa terribile, spaventosa e inaudita che si era manifestata in lui e lo aggrediva implacabile, trascinandolo chissà dove, fosse motivo di divertimento, un argomento su cui scherzare. Soprattutto lo irritava Schwarz con la sua ironia, la sua vitalità il suo essere come il fu che tanto ricordava a Ivan Ilyich se stesso 10 anni prima. Una sera arrivarono un po' di amici per giocare a carte, presero posto, erano in 7. Le carte nuove venivano distribuite, maneggiate, e i quadri venivano sistemati con i quadri. Il compagno gli disse di non avere briscola e lui in mano aveva 2 quadri. Che cosa voleva di più? Avrebbe dovuto essere contento e felice. Era slam. Ma di colpo Ivan Ilyich sentì quel dolore divorante, quel sapore in bocca, e gli parve terribile essere capace di rallegrarsi per uno slam di fronte a tutto ciò. Guardava Mikhail Mikhailovich, il compagno, che batteva sul tavolo la sua mano sanguigna e con indulgenza e cortesia si tratteneva dall'afferrare le prese, spingendole verso Ivan Ilyich per dargli il piacere di raccoglierle senza dover allungare troppo le braccia per non fargli fare troppa fatica. Ma che crede? Che sono così debole da non poter allungare le braccia? Pensava Ivan Ilyich. Dimenticava la briscola o la buttava quando non serviva e perdeva lo slam di 3 prese. Ed era terribile vedere Mikhail Mikhailovich soffrire mentre a lui non importava niente. Ed era terribile constatare che a lui non importasse. Tutti si accorgevano che Ivan Ilyich si stava affaticando e gli dicevano: possiamo smettere se siete stanco. Andate a riposare. Riposare? No, non era per niente stanco. Voleva finire di giocare la partita. Tutti si erano fatti cupi e taciturni. Ivan Ilyich capiva che era stato lui a provocare quella tensione, ma non poteva dissiparla. Cenarono, si separarono e Ivan Ilyich rimase da solo con la colpevolezza che la sua vita avvelenava non solo se stesso, ma anche la vita degli altri, e che questo veleno non si indeboliva, ma si diffondeva sempre di più in tutto il suo essere. Con questa consapevolezza, con le sofferenze fisiche e con il terrore anche, doveva stendersi sul letto e spesso passare gran parte della notte sveglio per colpa del dolore. E al mattino doveva alzarsi, vestirsi, andare in tribunale, parlare, scrivere. Se non ci andava, doveva restare a casa tutto il giorno e ogni ora era un tormento. E a vivere così, quasi sul punto di morire, era da solo, senza nessuno a capirlo e a compatirlo.